Hai mai sperimentato la creatività? La creatività rappresenta il quinto elemento del mio logo. Qualcosa di totalizzante e travolgente che permette di arrivare oltre con gioia e passione! Ed ora ti dirò le 5 ragioni fondamentali per cui trascorrere una vita senza creatività è come uno dei primi modelli di televisori che trasmettevano le immagini di una realtà solo parzialmente bella, cioè in bianco e nero. Primo elemento, la creatività è la porta d'accesso al proprio bambino interiore, che si attiva, produce energia, produce forza, emette sorrisi smaglianti. Secondo, la creatività può essere espressa da chiunque e ovunque, poiché essa ha molteplici forme: musica, arti grafiche, pittoriche, giochi, cucina, sport, giardinaggio, attività sportiva, negoziazione, estetica, pubblicità e persino luoghi spirituali e attività meditative. Non vi è ambito dell'umano in cui non sia possibile applicare la creatività. Essa è davvero universale e alla portata di tutti. Terzo principio, potentissimo! La creatività rappresenta la soluzione a problemi apparentemente irrisolvibili. Quarto punto, dove c'è creatività, c'è passione, c'è amore, c'è qualità di vivere, c'è qualità di vita. Insomma, questa creatività ha il potere di mettere in moto le qualità migliori di ogni essere vivente. Quinto punto, la creatività può essere imparata, allenata, trasmessa e soprattutto perfezionata ad ogni età, in ogni luogo della Terra, da qualsiasi abitante, con qualsiasi status sociale. Sapete qual è il bello? Che la creatività ha il potere di mettere in moto le qualità migliori di ognuno di noi. La creatività fa davvero bene, per cui sbizzarritevi e siate creativi!